sempre con Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, in questo caso agli Amantide. Sono 98.6 per la bassa veronese, zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia e 91.5 per la zona lago. Radio RCS la si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Dal British Heavy Metal ad un salto indietro nell'hard rock con alcune esibizioni live di grandi formazioni del genere. Il primo brano era Let It Roll degli UFO dal disco live Strangers in the Night del 1979. Band inglese ancora attiva, nota per aver scoperto il talentuoso chitarrista tedesco Michael Schenker e per aver anticipato alcune sonorità poi riproposte da alcune metal band negli anni 80. Che ne pensate? Sono una band straordinaria e mi piange ancora il cuore di aver perso un concerto di apertura per loro a Udine al Biker Fest per colpa di un nubifragio che aveva fatto crollare il palco. Madchen è il titolo del vostro nuovo e secondo disco. Qual è il significato di questa parola tedesca? Significa ragazza. È una parola che ho scelto principalmente per la sonorità, perché mi piace molto come parola, e anche per tutto un concept che sta dietro, insomma, tutto l'album, tutte le grafiche del CD incentrate un po' sul tema della donna. Passiamo ora agli Uriah Heep. Nel 1979 esce Live in Europe, disco dal vivo, che racchiude le esibizioni della formazione inglese nel periodo in cui era entrato come cantante John Lawton, maestoso cantante ex Lucifer's Friend. Ci ascoltiamo Look at Yourself. Band ancora attivissima nel panorama mondiale, dai toni epici di grande impatto sonoro. Che ne dite? Sì, non fanno propriamente parte dei nostri ascolti e delle nostre ispirazioni musicali, però indubbiamente sono stati e sono tuttora una grandissima band. Sicuramente live deve essere una bella soddisfazione vederli. Vostri ascolti musicali quali sono e quanto influenzano la composizione dei brani? Allora, come gruppi noi ci influenziamo a gruppi molto distanti dai gruppi che stiamo ascoltando questa sera. Certo. E, beh, soprattutto il gruppo principale penso che siano gli Exilia, un gruppo italiano da Milano, non so se conosci. Certo. E loro sono stati un gruppo, cioè musicalmente più che altro ci ispirano molto. Poi ci sono anche, ultimamente sono entrati anche come influenze di Pantera, qualcosa dei vecchi, sì, vecchi, qualcosa del periodo di Sepoltura, di Caos metal, insomma, ecco. Sì, qualcosa con l'entrata del nuovo chitarrista, è entrata un po' questa influenza che già cercavamo. Poi ci sono stati Deftones, Catatonia, gruppi abbastanza recenti, diciamo, ecco, che influenzano. Basta. Okay. La seconda parte si chiude con i Thin Lizzy da Live and Dangerous del 1978. La storica band di Phil Lynott esegue Emerald. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco degli Amantide dal titolo Mad Chan. Is there anybody here with any Irish in them? Is there any of the girls that like a little more Irish in them? It's a little called Emerald. Down from the glen came the marching men with their shields and their swords to fight the fight they believed to be right. Overthrow the overlords to the town where there was plenty.